Quando ho scoperto che proprio il responsabile della mia esistenza, insieme ai suoi indicibili tormenti che gli avevo procurato, osava nutrire comunque speranze di felicità, che mentre accumulava dolore e disperazione su di me, andava alla ricerca della propria gioia in quei sentimenti e quelle passioni a me per sempre negate, allora l'irrefrenabile invidia mi colmò di una bruciante sete di vendetta. Ricordatomi della mia minaccia, decisi che l'avrei messa in pratica. Sapevo che mi sarei preparato una tortura mortale, ma non ero io il padrone. Ero lo schiavo, schiavo di un impulso, un demone che mi ripugnava, ma allo stesso tempo al quale non potevo disobbedire. Frankenstein, Mary Shelley. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Ho provato un desiderio irrefrenabile di impossessarmi di quei gamberi e di quelle ostriche. Infatti ho dovuto trattenermi dal chiedere ai vicini di darmene qualcuno. Non riesco a staccare gli occhi dal loro tavolo. Improvvisamente il mio piatto mi sembra poca cosa. Chiedo a mia moglie: che dici? Si offendono se gli chiedo un assaggio? Storie di gamberi e di grandi trasformazioni in una puntata dedicata al vizio dell'invidia. Quali e quante sono le gradazioni di un vizio? Cioè, quali e quanti sono le dimensioni di una linea d'ombra, di una linea di confine che segna in questo caso un comportamento dettato dall'invidia oppure no? Oggi vi racconteremo storie. Continuiamo a fare quello che facciamo tutti i giorni, anche se appunto sapete qual è la situazione in giro, al di fuori delle nostre case, in particolar modo al nord Italia. Insomma, lo sentite tutti i giorni qui grazie al servizio di Radio 24 e tutti i media che lo stanno raccontando. Noi, proprio per evitare che anche la paura diventi una forma di intrattenimento, cerchiamo di usare la forma di intrattenimento più antica, che è appunto condividere le vostre storie, e vi ringraziamo per continuare a farlo. E oggi appunto, riguardo a storie dedicate al vizio dell'invidia, ne abbiamo due che sono, come sempre, molto molto diverse tra di loro. La prima è la storia che ci manda Tiziano, lo avete sentito già, parla di gamberi, parla di come semplicemente un piatto portato a un tavolo vicino al nostro, al ristorante, in realtà succede sempre così. Ordiniamo una cosa, la guardiamo e quello che ha preso il tizio di fianco è chiaramente più buono, o perlomeno è chiaramente più bello. E lui racconta molto bene quello che accade durante un pranzo in una taverna in Portogallo, quando vede le persone accanto a lui ordinare dei cibi meravigliosi. È un racconto che fa davvero venire l'acquolina in bocca. La seconda storia invece è una storia che arriva dal New York Times Magazine, è una storia molto recente, uscita un mese fa su quel magazine americano, che racconta, alla fine l'invidia ha a che fare col desiderare le cose da altre. Racconta di questa donna che per tutta la vita ha desiderato essere un uomo e alla fine ce l'ha fatta. È una storia che si intitola Becoming a Man, diventare un uomo, che ha diverse sfaccettature. Chiaramente non riguarda solo la questione di genere, ma riguarda il desiderio di diventare un essere umano. Sono due storie molto belle, molto diverse. Mettetevi comodi, ora cominciamo. Benvenuti a Linea d'Ombra. Dicembre 2019. Sono da due giorni in Portogallo, a Faro. Mai stato in Portogallo. Ero curioso di vedere l'Algarve. Gli amici ne parlavano entusiasti. Perché non farci un salto per una settimana, prima di Natale? Il volo da Milano costa molto poco, è diretto, l'albergo anche. In fondo il Natale lo passerò da mio figlio a Milano. Insomma, tutto combacia alla perfezione. Bene, come dicevo, è il mio secondo giorno a Faro. Piove, faccio un giro al mercato coperto. Si fa ora di pranzo. Mi infilo a O Palacinho, trattoria bar molto molto locale. Presente quei posti che sono così da 100 anni, mai rinnovati, intrisi di storie e sapori. Il menù è scritto a mano ed è incomprensibile, quasi quanto una ricetta del medico di famiglia prima del computer. Ci sediamo io e mia moglie in un piccolo tavolino a ridosso degli altri. Nel tavolo a fianco, alla mia destra, a 30 centimetri, ad occhio un tipo che più portoghese non può essere. Pelle olivastra, orecchino all'orecchio, si arrotola la sigaretta ed esce a fumare. Il piatto che ha davanti mi attira è un tegame con un po' di brodo, pasta, ceci, 3 tocchi di carne, insomma una specie di bollito stile portoghese. Ordino quello, squisito. Il cameriere e il mio vicino apprezzano, mi sento già con il passaporto portoghese in tasca. Mangio tutto contento e osservo gli altri commensali. Sì, beh, il ristorante, chiamarlo ristorante forse è anche troppo pretenzioso, era un locale proprio nel mercato coperto, vecchio stile, pieno di commensali, a mezzogiorno era pienissimo, tutti i tavolini piccoli attaccati, i camerieri tutti vestiti rigorosamente in nero da pinguino come fanno là in Portogallo, la cucina vista, quindi era proprio una cosa che attirava, perlomeno attirava me, magari respinge tanti altri, ma io sono sempre alla ricerca di quello che è lo spirito locale più profondo per quello che posso riuscire a cogliere. Alla mia sinistra arriva una famiglia locale, padre, madre, 2 figli adolescenti. Il padre abbraccia il padrone, sono clienti abituali, penso siano amici. La famiglia si siede e la mamma probabilmente comincia ad aprire in mezzo al tavolo dei cartocci con del prosciutto, del formaggio, delle olive, acquistate poco prima alle bancarelle del mercato coperto. I 4 iniziano a mangiare come se fossero ad un picnic improvvisato in estate, con le mani, direttamente dal cartoccio, senza posate nei piatti, ma dentro a un ristorante. Io sorrido. Commento con mia moglie che senz'altro sono amici del padrone, che da noi in Italia certe cose non si fanno. Osservo la scena con una certa aria di supponenza, dall'alto della mia condizione economica, che reputo a questo punto immensamente migliore rispetto a quella di questa famiglia vicino a noi, pensando erroneamente che pasteggiassero in quel modo proprio per questioni meramente economiche. Mi sento comunque perfettamente a mio agio, con alla mia destra il mio amico portoghese e alla mia sinistra questa famiglia autoctona. La mia sicurezza crolla improvvisamente con l'arrivo del cameriere e di un enorme vassoio ovale di acciaio. Perché il sol non brilla quando fico de feria, a fins de semana, o nos meus dias de folga. Eu passo os dias a ver gente em fato de banho. Calções e havaiana, e eu sempre de camisola. E eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Dava Cameriere deposita il vassoio in mezzo al tavolo, occupato dalla famiglia, e io resto di sasso. Ci sono almeno 50 gamberi, rossi, perfetti, meravigliosi, lì che occupano il vassoio. Rimango sbalordito dalla meraviglia e mi rendo conto dell'errore enorme di valutazione che ho fatto. Sono invidioso, sento il bisogno di assaggiarne almeno uno. Fra l'altro la figlia li mangia svogliatamente, proprio come capitava a me quando mia madre cucinava il cavolfiore. Non riesco a staccare gli occhi dal loro tavolo. Improvvisamente il mio piatto mi sembra una povera cosa al confronto. Chiedo a mia moglie: che dici? Si offendono se ne chiedo uno per assaggiarlo? In fondo sono un turista, sono un italiano. Mia moglie mi guarda come un pazzo. Ma sei matto, mi dice. Io sono combattuto, vado matto per i crostacei e il pesce crudo pure, e non mi capacito di avere sottovalutato quella famiglia da una parte e dall'altra non avere capito dal menù quali meraviglie si nascondevano in quella cucina. Non riesco a decidermi e così arriva la mazzata finale. Torna il cameriere con un altro vassoio, con almeno 2 dozzine di ostriche meravigliosi, grandi, freschissimi. Sento i miei occhi che diventano palloni, ho la faccia bloccata di marmo, tolgo lo sguardo dalle ostriche e guardo mia moglie. Lei ride, divertita dalla mia espressione. Non reggo l'affronto, sono sbalordito e senza parole. Vedo con dolore, tra l'altro, che il padre della famiglia, prima di mangiare l'ostrica, ne scola il liquido. Per me la cosa è insopportabile, io amo il sapore del mare, della loro acqua. Se potessi, gli chiederei di farmi bere un po' di quell'acqua. Sono roso dall'invidia. Se non avessi già riempito il mio stomaco con il bollito, ordinerei anch'io quei frutti di mare. Ma mi sembra fuori luogo. Poi sono con mia moglie e ho 65 anni. Sì, sì, beh, mia moglie mi conosce e sa che quelle situazioni mi intrigano e perdo un po' l'aplomb solito, no? Poi in viaggio ancora di più. Quindi rideva perché avevo prima commentato quei quattro, no? Naturalmente poi mia moglie, visto quanto avevo sbagliato la previsione, è evidente che si è messa a ridere. Questo, è successo questo. Quella famiglia, che io avevo battizzato al limite dell'indigenza e senza fissa dimora, mi ha dato una lezione indimenticabile. Ancora oggi la cosa mi rode. Ho invidia del pranzo che non ho fatto. Certo, avrei potuto tornare nei giorni successivi a pranzo, ma mi sentivo superiore e in grado di resistere alle tentazioni. Ma sbagliavo. Ora che sono in Italia ho l'acquolina in bocca pensando ai sapori che ho perso. Conoscendomi so che davanti a me ho un'unica soluzione. Mi dà un piacere sottile pensare che tornerò appositamente questa primavera a Opalacigno per mangiare gamberi e ostriche, fosse l'ultima cosa che faccio. And then he says, with our glasses both raised in a toast, let's sing for those in peril on the sea. Cater ceaselessly to my every wish, with every fish as fresh can be. You see, I'm into my oysters. I keep those in Babylon. No matter how far away they are, I'll be there at them. She says, now with our glasses both raised in this toast, let's sing for those in peril. Stesso sono il primo che quando riceviamo le storie che ci mandate, come fate da mesi, leggendole, guardandole, mi domando quale sia stata la molla che ha spinto ognuno di voi a mettere via il computer e condividere una vostra storia. Poi qualche risposta me la sono data in alcuni casi, perché magari abbiamo raccontato una storia specifica che parla di qualcosa e l'ascoltatore a casa dice: ma anch'io ho una storia simile riguardo a quel mondo lì, che so io, che sia una vacanza o che sia una passione per la montagna, il mare, eccetera. Eccetera. Quindi quasi per osmosi uno si sente chiamato a raccontarla, oppure perché semplicemente uno ha una storia che ricorda ma che non ha ancora trovato il modo per tirare fuori e lentamente con il tempo, sentendo altre storie, decide di scriverla. È per questo motivo che sono stato molto affascinato dalla ragione per cui Tiziano abbia scelto proprio questa storia da condividere per parlarci di invidia. Ciao Tiziano, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a te Matteo. Come ciao. Stai? Bene, sto molto bene, ti ringrazio. Senti, sono passati mesi, insomma era dicembre, sono passati neanche tre mesi, sì. Però tu sei proprio determinato a tornare in Portogallo a mangiarti i gamberi. Ah beh, certamente è una cosa che scemo io a chiederlo. Ho programmato di fare massimo entro aprile. Perfetto, certo. Tu di dove sei Tiziano? Ricordami dove abiti. Di Ravenna. Sei di Ravenna, ok. Bisogna capire come è messo il Portogallo con gli italiani adesso, perché ognuno ha regole proprie, sì. Però insomma sì. Ad aprile sarà un altro giorno sicuramente. Tu sei solito chiedere ai tuoi vicini di tavolo di farti assaggiare della roba o era un caso? No, non mi sarei mai permesso, anzi... Anche con la vicinanza dei tavoli non l'avrei fatto. Ecco, lì ho dovuto proprio resistere e contenermi nel recinto delle buone maniere, perché sennò avrei certamente chiesto di assaggiare i gamberi. E tra l'altro tu dici: mi sembrava fuori luogo, poi sono con mia moglie e ho 65 anni, come se il fatto di avere 65 anni sia inibente rispetto a chiedere qualcosa a un tavolo accanto. Sì, sì, beh, in qualche modo l'età matura, è chiaro che veramente. Cioè, più giovane sei, più hai la faccia di tolla, secondo te. Sì, oppure devo superare gli 80 anni. A quel punto lì, dopo c'è. Sì, direi che la fascia di mezzo è quella che è più penalizzante. Sì. Senti, tu che cosa hai fatto nella vita, Tiziano? Ah, guarda, io ho fatto un sacco di lavori. Adesso, visto l'età, che ho 65 anni quest'anno. Certo. 65 anni oggi nel 2020 sono pochissimi, sei giovanissimo, certo. Lo sai. Okay. Sì, infatti. E comunque adesso sto cercando di fare le cose che mi piacciono, per cui gestisco con alcuni amici soci sale cinematografiche, quindi faccio cinema, sale cinematografiche qui a Ravenna e nei paesi vicini. Ma quindi fai il proiezionista, no? No. Abbiamo una piccola società e abbiamo in gestione quattro sale. Ma è un lavoro, quindi non è un hobby. No. Ti dico che ho mantenuto questo perché è un lavoro che è anche una passione, insomma, e quindi. Com'è la situazione in quella zona adesso per gli avvenimenti pubblici, cinema? È ancora tutto tranquillo al momento? No, è un po' triste perché la delibera che hanno fatto, noi siamo chiusi da domenica. Ah, anche siamo voi chiusi, siete chiusi? Okay. Siamo chiusi, sì, solo i cinema, bar, ristoranti, eccetera, tutto aperto, ma il cinema e teatri, immagino. Dico. Cinema e teatri, cinema. Sì. E avete notizie su quando, come? Per adesso la delibera parla del 1 marzo, fino al 1 marzo, quindi vediamo che cosa succederà successivamente. Senti, tornando in Portogallo, invece, sì. Tu quindi hai capito, sei in quel locale lì che adesso, diciamo, o Palacinio me lo vado a cercare sicuro e in qualche modo quando andrò in Portogallo lo visiterò, è abitudine potersi portare i cartocci dal mercato o erano davvero amici del proprietario? Ma guarda, per il tipo di locale e così, per il mercato coperto che ho visto, lì abitudine si può fare qualsiasi cosa. Cioè si va lì, è un po' come da noi le osterie con uso di cucina che c'erano 50 anni fa, no? Cioè, se non ricordo male c'è a Bologna un'osteria, sì, dove ancora l'osteria del Sole, dico male? Bravo, proprio nel vicolino, nel centro, proprio nel centro storico, dove puoi portare le tue cose e solo il bene devi comprarlo lì. Ricordo bene. Giusto, esatto. Vendono il vino, però tu ti puoi mangiare il vino, ti puoi fare. E questo sicuramente era un posto del genere, dove diciamo che era sdoganato tutto, insomma. Tiziano, il prossimo business dopo i cinema, sì? Apri dei locali dove ci si può portare da mangiare e tu vendi solo da bere. Ah, fantastico, sì, beh, ma a posto, ben fatto. Quanto mi dai? In che parte sono nella società? Ti per l'idea? Società, va bene, ne parliamo con calma. Tiziano, grazie ancora per la storia, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Lo spirito della Romagna ha pervaso ognuno di noi dopo la storia, ma soprattutto dopo la voce e la telefonata con Tiziano. Io vi ricordo che se avete voglia di continuare a mandarci le vostre storie, linee d'ombra, @radio24.it, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Questa puntata è dedicata al vizio dell'invidia. Tra pochissimo vi raccontiamo un'altra bellissima storia che arriva, non arriva dalla Romagna, arriva dagli Stati Uniti, ed è la storia di una donna che ha sempre invidiato l'essere un uomo e ha deciso all'età di 50 anni di diventarlo. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Giusto per chiudere l'argomento di prima legato alle locande, alle osterie che ti permettono di portare il cibo e di comprare solo il vino, appunto come l'Osteria del Sole di Bologna, è arrivato un messaggio al 349-238-6666 di un ascoltatore che ahimè non si firma, che dice che nel secondo dopoguerra questa pratica la facevano in molti per permettere anche ai meno abbienti di andare al ristorante portandosi il pasto a casa. Per questo motivo, dice, ancora oggi in Italia si paga il coperto, il motivo per cui appunto paghiamo il posto in cui mangiamo. A Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali, siamo di invidia. Siamo partiti dall'invidia, come avete sentito, per un piatto enorme, un vassoio più che un piatto, di meravigliosi gamberi rossi visti in un locale in Portogallo da Tiziano. E ora andiamo da un'altra parte. Parliamo di linee di confine, linee d'ombra tra i generi, in questo caso, tra i generi e tra i sessi. E più tardi avremo un ospite che ci spiegherà molto bene, nello specifico, non solo le definizioni di genere, ma anche quali sono i confini tra l'essere trans gender, essere transessuale e i gusti sessuali e la sessualità. Insomma, ne parleremo con un'esperta, ne parleremo con lei. Ora raccontiamo questa storia. È la storia di un uomo, un artista americano, che è un uomo da poco in realtà, perché per 50 anni è stata una donna. Questa storia l'ha raccontata sul New York Times Magazine poco più di un mese fa. Si intitolava Becoming a Man, vi dicevo poco fa, e comincia così. È una bella mattina di aprile dell'anno 2018 quando io e mia moglie Lynette decidiamo di andare a casa dei miei genitori. È la nostra prima gita dopo il mio cambiamento. Lei appunto era una donna, era sposata con una donna e ha deciso di diventare un uomo. In questa puntata dedicata al vizio dell'invidia, la seconda storia di oggi è proprio quella di Carl, che fino a poco prima era Polly. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Guidiamo per 880 km sulla Interstate 90 da Boston attraverso New York, Pennsylvania, Ohio, per raggiungere la mia casa d'infanzia a Elkhart, in Indiana. Anche se ho 51 anni, sembro un 25enne. Ho una leggera barbetta, indosso una felpa, delle sneakers ricercate e un cappello da baseball dei Chicago Cubs. Ogni volta che facciamo una tappa durante il viaggio, qualche uomo bianco inizia una conversazione con me. Lynette, mia moglie, è incredula. Gli uomini che adorano davvero chiacchierare con me di solito hanno la mia età, forse qualche anno in più, ma pensano che io sia molto più giovane di loro e usano sempre un tono paternalistico. Lynette, di fianco a me, si prodiga in smorfie per farmi ben comprendere la sua disapprovazione. Mia moglie si identifica in una lesbica da 40 anni e, sebbene ami i ragazzi, specialmente i nostri nipoti, non ha mai dimostrato nessuna attrazione nei confronti degli uomini e tantomeno dei loro discorsi. E per quanto io abbia fatto di tutto per sembrare un uomo e vivere come un uomo, fino a poco fa ho negato di voler diventare un uomo proprio perché non volevo perderla. Ma sapevo anche che non volevo invecchiare come una femminista intellettuale. Sono stato Polly, una donna del Midwest, bianca, per 50 anni. Fino a una settimana fa, quando ho attraversato una linea. Dopo 7 mesi di testosterone, sono andato all'hotel Chandler di Midtown Manhattan intorno alle 18. «Buonasera, signor Carl, come sta?» mi ha chiesto l'addetto alla reception. Questo è stato l'inizio della mia nuova vita. Il 16 marzo del 2017 sono diventato un uomo. «Preparati a perdere tutto», mi ha detto il mio medico quando ho iniziato il testosterone. Sembrava quasi un avvertimento, perché pensavo di non poter perdere tutto abbastanza in fretta. Volevo che smettesse di parlare, però aveva ragione. Io ero in circolazione come Polly da più di 50 anni. Come Polly sentivo intensamente la discriminazione legata all'essere una donna di successo nella mia professione. Come Carl, sono diventato testimone della discriminazione nei confronti delle donne di tutto il mondo, in un modo in cui, come Polly, non potevo più accettare. Il mio nuovo io, Carl, sta iniziando a conoscere la libertà di essere un uomo e cosa succede negli spazi in cui solo gli uomini a loro è permesso andare. In un certo senso sto diventando un uomo, ma in un altro senso lo sono sempre stato un uomo. Soltanto oggi però sto sperimentando cosa significhi vivere come lui. Diventare un uomo bianco è come una sorta di superpotere appena ritrovato. Quando Spider-Man si rende improvvisamente conto di poter scalare i lati degli edifici, ma non sa bene come controllare il proprio potere e si schianta contro un muro di cemento nei suoi primi numerosi tentativi. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We'll live together in a photograph of time. And I look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me. I know you can't tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. Il mio esempio è sempre stato mio padre, una specie di caricatura della mascolinità bianca più tossica che esista. È stato un uomo che non ha mai pensato a nessuno tranne a se stesso. Un uomo spaventato, per lo più cattivo, che ha passato tutta la sua vita a casa ad abbaiare le sue teorie conservatrici dalla poltrona di casa sua, con la mano sul telecomando, coi numeri cancellati per via dell'usura. Mio padre mi ha aiutato a diventare un razzista e un omofobo. Alle medie definivo mio fratello Tim un frocio quando litigavamo. E non sapevo cosa significasse quella parola. Non avevo mai conosciuto consapevolmente una persona gay. Quando sono tornato a casa dalla scuola di specializzazione e ho detto a mio padre che io ero gay, non mi ha parlato per un anno. Il razzismo di mio papà è meno evidente di quello della maggior parte dei bianchi che conosco a Elkhart, in Indiana, però non è motivo di vanto. Nei rari momenti in cui era a casa, quando ero una bambina, guardavamo le nostre squadre preferite di football americano, gli Indiana Hoosiers o i Notre Dame, e lui passava tutto il tempo del match a inveire contro i giocatori di colore della sua poltrona reclinabile. Altro esempio per me, invece, è stato Frank, il padre di mia moglie, Lynette. Non sapevo davvero come descrivere un brav'uomo fino a quando non ho incontrato Frank. E non ho mai saputo cosa facesse un padre fino a quando non è diventato anche il mio. L'ho conosciuto nel 2009, quando venne a trovarci per primo nella casa in cui ci eravamo trasferiti. Non avevamo nemmeno i mobili, non c'era posto dove sedersi, solo un materasso per gli ospiti sul pavimento. Ma Frank insistette molto per venire a trovarci. Ci portò in un vecchio locale italiano per la cena e a metà cena si sporse verso il tavolo e disse: «Volevo solo vedere se stavate bene». Frank è stato un terreno solido sotto i miei piedi. Non era potente o persuasivo o ambizioso o spaventoso come la maggior parte degli uomini della mia vita. Era curioso, calmo e attento. Sono sicuro che anche lui nutriva convinzioni razziste e un po' di omofobia. E aveva nozioni convenzionali sulle donne, però accettava le persone per quello che erano e basava i suoi giudizi sull'esperienza e non su preconcetti. La mamma di Lynette non accettava che sua figlia non avrebbe avuto un matrimonio e figli con un uomo. Invece Frank mi ha trattato come qualcuno di cui si fidava per prendersi cura di sua figlia. «Ha un dottorato di ricerca», diceva a tutti parlando di me. Frank al nostro matrimonio gay piangeva di gioia. Quando finì in una struttura di riabilitazione dopo essersi rotto l'anca, diceva raggiante a tutte le infermiere: «Questa è mia figlia e questa è sua moglie, si sono appena sposate». È grazie a mio padre e grazie a Frank, se penso che siamo tutti fatti di moltissime contraddizioni. Io mi sono sempre sentito un uomo, ma sono stato anche una donna per 50 anni e conosco visceralmente come vive una donna. Vedo tutti i difetti degli uomini, tutti i modi in cui la loro fragilità li rende pericolosi, potenti, sprezzanti e sicuri, e adoro essere un uomo imperfetto. Adoro la mascolinità e adoro uscire con gli uomini. Il mio corpo è una contraddizione. Provo una rabbia infuocata verso gli uomini per avermi trattato come una donna, per avere fatto sembrare le donne delle pazze emotive ed inferiori per quello che gli uomini mi hanno fatto. Mentre io e mia moglie entriamo nel vialetto dei miei, provo tanta gioia nel vedere nel corpo di un uomo su di me e sto cercando di trovare una strada per diventare un uomo buono. I was walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder, and I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. And a woman hot with worry slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were observed. So she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. Luca Micheli sceglie David Bowie per chiudere questa storia che abbiamo trovato sul New York Times Magazine. Era molto più lunga e molto più complessa. Noi cerchiamo di tenerla in uno spazio che è ascoltabile all'interno del nostro programma qui a Linee d'Ombra, però se avete voglia di trovarlo lo trovate online gratuitamente. Becoming a Man, presa dal New York Times Magazine. E visto che parliamo di genere, di differenza di generi e di sessualità, tra poco sentiamo un'esperta, una ricercatrice del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità, per cercare di capire meglio, soprattutto quando usiamo delle definizioni, quando decidiamo che delle parole significano qualcosa di specifico, e lo chiediamo direttamente a lei. Sentiamo le strade in diretta e poi torniamo qui al Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Io ho finito da poco di fare un piccolo test che potete fare tutti voi, lo trovate online, si chiama studiopopolazionespot.it. È un test che serve a misurare la qualità della vita e la sanità delle persone legate alla propria identità di genere. Ma per spiegarcelo meglio lo chiediamo direttamente alla nostra ospite, che è Marina Pierdominici, che è ricercatrice del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Pierdominici, buongiorno. Buon pomeriggio, grazie mille per essere qui innanzitutto. Grazie a lei. Quando è cominciato lo studio che state facendo e qual è il suo obiettivo? Allora, lo studio è iniziato a dicembre del 2019, metà dicembre 2019, ed è tuttora uno studio che stiamo portando avanti. Lo scopo di questo studio è quello di avere una stima della numerosità della popolazione transgender adulta che vive in Italia. È un dato importante perché ad oggi non ne disponiamo, non lo conosciamo, ed è fondamentale per una programmazione sanitaria che sia mirata alla popolazione transgender. Quindi l'idea è quella di avere un campione statistico, grosso modo? È quella di avere la numerosità, un dato reale, perché è fondamentale avere il dato del numero delle persone verso le quali una programmazione sanitaria deve essere orientata. Se non conosciamo questo numero in termini di programmazione sanitaria, si può fare ben poco. Diciamo che è un dato fondamentale, il primo dato necessario per fare una programmazione sanitaria che sia mirata verso un determinato target, in questo caso la popolazione transgender, che sappiamo da tutti i report internazionali essere una popolazione marginalizzata rispetto alle politiche sanitarie, con difficoltà di vario tipo di accesso e di utilizzo dei servizi sanitari, ma anche a quelle che vengono chiamate chiamate risorse determinanti nell'ambito sanitario, come possono essere l'educazione, la scuola, il lavoro e l'alloggio. che ha a che fare con la cultura, poi in fin sì, dei conti. Sono risorse determinanti queste nell'ambito sanitario, perché una difficoltà di accesso a questi diritti, che sono diritti fondamentali, come ad esempio appunto la scuola ed il lavoro, possono avere conseguenze sulla salute delle persone stesse. E le persone transgender non solo, come detto, hanno una difficoltà di accesso diretto ai servizi per svariati motivi, ma anche una difficoltà a poter usufruire dei diritti di cui tutte le persone di solito possono usufruire. Ed è per questo motivo che vi invitiamo a fare questo piccolo test, che è veramente molto veloce. Andate sul sito studiopopolazionespot.it e lo trovate. Io l'ho appena fatto, e alla fine del test appare una sorta di nomenclatura, un lungo elenco, sì, di definizioni. Ed è su questo, dottoressa, che mi piacerebbe soffermarmi un secondo, perché davvero c'è la differenza di genere, sesso, intersessuale, disforia di genere, transizione, transessuale, transfobia, identità di genere. Partiamo da qua. Che cos'è l'identità di genere, dottoressa? Allora, l'identità di genere è ciò che una persona sente di essere, appartenente ad un genere, diciamo, e non ad un altro genere. Vorrei sottolineare un concetto molto importante, cioè che l'identità di genere non ha nulla a che fare con l'orientamento sessuale. Di solito questi due concetti si tendono a confondere, perché l'identità di genere è appunto il senso di appartenenza ad un genere e non ad un altro. Ad esempio, se una persona si identifica con il genere assegnato alla nascita, si definisce cisgender. Se una persona non si identifica con il genere assegnato alla nascita, si definisce transgender, persona transgender. La persona transgender appunto è una persona la cui identità di genere non è allineata allo sesso assegnato alla nascita. Okay. E vorrei sottolineare un concetto importante, cioè che il termine transgender è un aggettivo, non è un sostantivo. Spesso viene usato come sostantivo e questo è un errore. L'uso corretto del termine appunto è come aggettivo, quindi una persona transgender. Ok, quindi insomma non è una definizione, ma è appunto un aggettivo, come suggeriva. Proseguo pure il concetto. Volevo sottolineare la differenza appunto tra l'identità di genere, che è come ci si percepisce, come ci si sente, sì, con l'orientamento sessuale, che sono due concetti completamente diversi, perché l'orientamento sessuale invece indica l'attrazione fisica verso un'altra persona, che può essere una persona del sesso opposto o dello stesso sesso. Ok, quindi insomma, quindi sono due concetti diversi. Quindi una persona può nascere uomo e avere i gusti sessuali che preferisce, giusto? Cioè, sì. O donna, avere. E altra cosa invece è nascere uomo o donna, ma sentirsi come appartenenti ad una categoria, ad un genere, che può essere maschile, femminile o d'altro. Ok, e mi perdoni, quindi lo studio serve anche a capire tutte le sfaccettature di queste diverse sfaccettature dell'essere umano, dell'essere una persona, sì. Sempre per motivi sanitari, giusto? Sempre perché queste persone hanno bisogno di avere un'identità sanitaria anche, dico bene? Assolutamente, mi sembra che sia giustissimo, identità sanitaria, perché queste persone fino ad oggi in Italia, ma come nel resto del mondo, sono state trasparenti nella maggior parte dei casi per quanto riguarda i servizi sanitari. Come ho detto, hanno difficoltà di utilizzo, di accesso dei servizi sanitari, e necessario per fare una programmazione sanitaria è conoscere la numerosità di questa popolazione, oltre chiaramente al loro stato di salute. Lo studio di popolazione, che è uno studio, vorrei sottolineare, destinato alla popolazione generale, e che può essere compilato in forma assolutamente anonima, questo vorrei sottolinearlo, ci consentirà di avere un numero concreto. Abbiamo dei dati della letteratura internazionale che ci dicono che la percentuale delle persone transgender nel mondo è compresa tra lo 0,5 più o meno e l'1,2%. Se applicassimo queste percentuali alla popolazione italiana adulta, potremmo dire forse in Italia ci sono più o meno, una stima di minima, 400.000 persone transgender, che non è un numero così piccolo. No, però assolutamente questo no. Studio ci permette di confermare questa ipotesi, e quindi è un primo passo verso quella che può essere una programmazione sanitaria, un'assistenza chiarissimo, sanitaria verso più mirata, popolazione più mirata. studiopopolazionespot.it, fatelo subito. Grazie mille alla dottoressa Pier Dominici, in bocca al lupo per grazie tutto. Grazie a lei, a presto. Buon pomeriggio. It's astounding, time is fleeting.

Si chiude qui, si chiude così anche questa puntata di Linee d'Ombra. Vi abbiamo raccontato storie che stanno al confine tra l'invidia, quella minuscola, quella piccola, quella che ha a che fare con il cibo che troviamo accanto al tavolo nostro in un osteria o in un ristorante, e invece il desiderio di essere realmente qualcun altro, il desiderio di diventare un'altra, più che un'altra persona, diventare un altro genere, come ci ha spiegato la dottoressa Pier Dominici, cioè il fatto di voler essere un uomo, perché ci si sente un uomo per tutta la vita, anche se si è nati come una donna. Riascoltatela, riascoltateci in podcast se avete voglia sul nostro sito o sulla app di Radio 24 o su quella che usate per scaricarvi i vostri podcast. Noi diamo la linea al GR e torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!